La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Abbiamo già visto in diversi articoli che il lavoro ha una funzione di grande partecipazione e grande sviluppo all'interno della Repubblica Italiana. Infatti, i lavoratori non devono semplicemente lavorare come contraenti deboli, come subordinati, ma hanno una serie di garanzie generali, articolo 1, articolo 4, e garanzie specifiche, articolo 35, 36, 37, 38. L'articolo 46 completa questa visione, la completa con la cogestione delle imprese. Infatti, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Questa collaborazione a cosa serve? Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione. Ovviamente anche qui il sapore e il sentore è fortemente orientato ad un'economia programmata, ad un'economia di stampo e di impostazione socialista, ma tuttavia è un'economia dove il lavoratore non è più semplicemente l'ingranaggio del grande sistema, ma deve arrivare a partecipare alla gestione delle imprese. Questa gestione condivisa da parte dei lavoratori ha avuto anche interessanti forme di applicazione, con la possibilità offerta da varie aziende ai lavoratori di detenere una parte delle azioni dell'azienda stessa in maniera da essere direttamente compartecipe dei guadagni e delle perdite. E quindi il lavoratore che non è più soltanto subordinato, ma diventa copartecipante alla gestione stessa del settore produttivo e dell'impresa in maniera da lavorare con più consapevolezza e più partecipazione.